Anni prima sarei stato addirittura felice di poter rivelare a Madame Swann a che proposito avessi provato tanto trasporto per il signor di Norpois, dal momento che quel proposito era il desiderio di conoscerla. Ma era un desiderio che non coltivavo più. Non amavo più Gilbert. D'altra parte, non riuscivo nemmeno a identificare Madame Swann con la signora in rosa della mia infanzia. Così parlai della donna che occupava in quel momento i miei pensieri. «Avete visto poco fa la duchessa di Guermantes?» le chiesi. Ma siccome la duchessa non la salutava, Madame Swann voleva dare l'impressione di considerarla una persona di nessun interesse, della cui presenza neppure ci si accorge. «Non so, non ho realizzato», mi rispose scontrosamente con un'espressione tradotta dall'inglese. Non di meno, avrei voluto raccogliere informazioni non soltanto su Madame de Guermantes, ma su tutti quelli che l'avvicinavano. E, proprio come Bloch, con la mancanza di tatto di chi, conversando, non cerca di piacere agli altri, ma di chiarire egoisticamente alcuni punti che gli stanno a cuore, per cercare di raffigurarmi con esattezza la vita di Madame de Guermantes, interrogai Madame de Villeparisis sul conto di Madame Leroy. «Ah, sì», rispose la marchesa con affettato disprezzo, «la figlia di quel grosso commerciante di legname. So che riceve un po' di gente adesso, ma vi confesso che sono troppo vecchia per fare nuove conoscenze. Ho conosciuto persone così interessanti, così amabili, che non credo, francamente, di potermi aspettare nulla di più da Madame Leroy». Madame de Marsan, che faceva la dama d'onore alla marchesa, mi presentò al principe e non aveva ancora finito che il signor di Norpois mi presentò a sua volta con gli accenti più calorosi. Forse trovava comodo farmi una cortesia che non intaccava in alcun modo il suo credito, visto che ero già stato presentato un attimo prima, o pensava che uno straniero, benché illustre, fosse meno aggiornato circa i salotti francesi e potesse credere che il giovane che gli veniva presentato appartenesse al gran mondo, o ancora intendeva esercitare una delle sue prerogative, quella di far valere come buona misura il peso della sua raccomandazione d'ambasciatore, o indulgeva il gusto arcaicizzante di far rivivere, in onore del principe, l'uso per lui lusinghiero secondo il quale, se si voleva essere presentati a un'altezza, erano necessari due padrini. Madame de Villeparisis interpellò il signor di Norpois, sentendo il bisogno di farmi confermare dal marchese che non si perdeva nulla a non conoscere Madame Leroy. «Non è vero, signor ambasciatore, che Madame Leroy è una persona di nessun interesse, molto inferiore a tutte quelle che frequentano questa casa e che ho fatto bene a non volerla fra loro?» Per spirito di indipendenza o per stanchezza, Norpois si limitò a rispondere con un cenno pieno di deferenza, ma del tutto privo di significato. «Bisogna dire, signore», aggiunse ridendo Madame de Villeparisis, «che c'è della gente proprio buffa. Oggi, ci credereste? Un tale che è venuto a trovarmi sosteneva di provare più piacere a baciare la mia mano che quella di una fanciulla e pretendeva che io ci credessi». Capii subito che si trattava di Le Grandin. Norpois sorrise strizzando leggermente l'occhio, come se riflettesse su una concupiscenza così naturale che era impossibile farne un addebito a chi la provava, se non addirittura su uno spunto di romanzo che gli era pronto ad assolvere, forse ad incoraggiare, con un'indulgenza perversa alla Boisenon o alla Crébillon fille. «Molte mani di fanciulla non saprebbero fare quel che ho visto laggiù», intervenne il principe indicando gli acquerelli abbozzati da Madame de Villeparisis, e chiese alla marchesa se avesse visto i fiori di Fontaine-la-Tour di cui si era appena inaugurata una mostra. «Sono di prim'ordine, e come si suol dire oggi, d'un bel pittore, di un maestro della tavolozza», dichiarò il signor di Norpois, Tuttavia, trovo che non reggano il confronto con quelli di Madame de Villeparisis, dove le tinte di ogni fiore hanno più risalto. Anche a voler supporre che la parzialità del vecchio amante, l'abitudine alla lusinga, le opinioni correnti in un determinato ambiente dettassero tali parole all'ex ambasciatore, queste provavano comunque su che totale assenza di gusto si basino i giudizi artistici della gente di mondo, così arbitrari che basta un niente a spingerli alla peggiore assurdità lungo una strada su cui non troveranno a fermarli nessuna impressione davvero sentita. Oh, non ho alcun merito a conoscere i fiori, sono sempre vissuta in campagna, replicò con modestia Madame de Villeparisis. Ma, aggiunse graziosamente rivolgendosi al principe, se ho appreso in materia giovanissima qualche nozione un po' più seria degli altri ragazzi di campagna, lo devo a un vostro eminente connazionale, il signor von Schlegel. L'ho incontrato a Broglie, dove m'aveva portata mia zia Corderia, la marescialla di Castellan. Ricordo benissimo che il signor Lebrun, il signor de Salvandi e il signor Dudin lo provocavano a parlare dei fiori. Ero una bambina, non potevo certo capire tutto ciò che diceva, ma lui si divertiva a farmi giocare e quando tornò nel vostro paese mi spedì un bel erbario in ricordo di una passeggiata a Val Richer, durante la quale, in feton, mi ero addormentata sulle sue ginocchia. L'ho sempre conservato quell'erbario e mi ha insegnato a notare tante particolarità dei fiori che altrimenti mi sarebbero sfuggite. Quando Madame de Barante ha pubblicato alcune lettere di Madame de Broglie, non meno leziose che belle, devo dire, proprio come era lei, ho sperato di trovarci qualcosa di quelle conversazioni del signor von Schlegel. Ma era donna da non cercare nella natura nient'altro che argomenti per la religione. Robert mi fece cenno di raggiungerlo in fondo al salotto, accanto a sua madre. «Quanto sei stato caro!» gli dissi. «Non so come ringraziarti. Possiamo pranzare insieme domani?» «Certamente, se vuoi, ma ci sarà anche Bloch. L'ho incontrato sulla porta. Dopo un attimo di gelo, perché senza volerlo non avevo risposto a due sue lettere, non che mi abbia detto d'essere offeso per questo, ma l'ho capito. È stato così affettuoso che non mi sento di mostrarmi insensibile a tanta amicizia. Ho la netta impressione che fra noi, almeno da parte sua, sia per la vita e per la morte». Non credo che Robert si ingannasse del tutto. Una furiosa attività denigratoria era spesso la conseguenza, in Bloch, d'una forte simpatia che gli era parsa non contraccambiata. E poiché aveva scarsa capacità di immaginare la vita degli altri, non gli veniva in mente che uno può essere stato male o aver fatto un viaggio, eccetera, e un silenzio di una settimana gli sembrava subito la prova di una freddezza premeditata. Per questo non ho mai creduto che le sue peggiori violenze d'amico e poi di scrittore fossero davvero profonde. Raggiungevano il culmine quando vi si opponeva una dignitosa indifferenza oppure una viltà che l'incoraggiava a raddoppiare i colpi, ma cedevano spesso a una calorosa simpatia. «Quanto al fatto che io sia stato caro con te», proseguì Seliu, «è un'idea tutta tua. In realtà non ho fatto niente. Mia zia sostiene che sei tu che la eviti, che non le rivolgi mai la parola. Si chiede se per caso tu non ce l'abbia con lei». Per mia fortuna, quand'anche mi fossi lasciato fuorviare da queste parole, la nostra partenza per Balbec, che credevo imminente, m'avrebbe impedito di tentare di rivedere Madame de Guermantes, di assicurarle che non ce l'avevo affatto con lei, costringendola così a dimostrarmi che era lei ad avercela con me. Ma mi fu sufficiente ricordare che non mi aveva nemmeno proposto d'andare a vedere gli Elstir. D'altronde non ero deluso. Non mi ero affatto illuso che me ne parlasse. Sapevo di non piacerle, di non avere alcuna speranza di ottenere il suo amore. Il massimo che potessi augurarmi era di ricevere di lei, per sua bontà, dal momento che non l'avrei più rivista prima di lasciare Parigi, un'impressione interamente dolce da portare con me a Balbec, prolungabile all'infinito, intatta, al posto d'un ricordo in cui l'ansia si mescolava alla tristezza. Madame de Marsant continuava a interrompere la sua conversazione con Robert per dirmi quante volte le avesse parlato di me, quanto bene mi volesse. Dimostrava nei miei confronti una premura che mi metteva quasi a disagio, perché la sentivo dettata dal timore che io potessi guastare i suoi rapporti con quel figlio che in tutto il giorno non aveva ancora visto, con cui era impaziente di rimanere sola e sul quale era convinta ad esercitare un potere inferiore al mio e dunque costretto a tenerne conto. Avendo sentito, prima, che chiedevo a Bloch notizie di suo zio, il signor Nissim Bernard, Madame de Marsant volle sapere se fosse la stessa persona che era vissuta a Nizza. In tal caso ha conosciuto il signor di Marsant prima che ci sposassimo, aveva aggiunto. Mio marito me ne ha parlato spesso come di un uomo eccellente, un cuore delicato e generoso. E dire che per una volta non aveva mentito è incredibile, avrebbe pensato Bloch. Mi sarebbe piaciuto assicurare a Madame de Marsant che Robert le era infinitamente più affezionato che a me e che, quando anche mi si fosse dimostrata ostile, non ero tipo da cercare di metterle contro Robert, di staccarlo da lei. Ma da quando Madame de Guermantes se n'era andata, ero più libero di osservare Robert. E solo allora mi accorsi che una specie di collera si era nuovamente impadronita di lui, affiorando sul suo volto indurito e cupo. Temevo che, ricordando la scena del pomeriggio, si sentisse umiliato di fronte a me per essersi lasciato trattare con tanta durezza e senza ribattere dall'amante. Scostatosi bruscamente da sua madre, che gli aveva posato un braccio sulle spalle, venne verso di me, mi trascinò dietro il piccolo banco fiorito di Madame de Villeparisis, dove era tornata a sedersi la marchesa, e mi fece segno di seguirlo nel salottino. Stavo affrettandomi a raggiungerlo quando il signor de Charlieu, pensando evidentemente che mi dirigessi verso l'uscita, interruppe di colpo la sua conversazione col signor di Pfaffenheim, compì una rapida conversione che lo portò a sbarrarmi il passo. Vidi con apprensione che aveva preso il cappello sulla cui fodera erano impresse una G e una corona ducale. Nel vano della porta del salottino mi disse, senza guardarmi, «Visto che adesso frequentate il bel mondo, siate così gentile da venire a trovarmi. Ma è abbastanza complicato», aggiunse con un tono fra la noncuranza e il calcolo, come se stesse parlando di un piacere che temeva di non riacciuffare più se si fosse lasciato sfuggire l'occasione di combinare con me i modi per realizzarlo. «Sto poco in casa, bisognerebbe che mi scriveste, ma preferirei spiegarvi tutto con più calma. Me ne andrò fra un istante. Venite a fare due passi con me? Non vi ruberò che un secondo». «Fate attenzione, signore», gli dissi. «Avete preso per errore il cappello di un altro». «Volete impedirmi di prendere il mio cappello?» Supposi, poiché in precedenza mi era capitato lo stesso inconveniente, che qualcuno avesse portato via il suo cappello costringendolo, per non tornare a casa a capo scoperto, a prenderne uno a caso e che io lo stessi mettendo in imbarazzo smascherando la sua manovra. Decisi perciò di non insistere. Gli dissi che, prima, dovevo parlare un attimo con Saint-Lieu. «Sta conversando», aggiunsi, «con quell'idiota del duca di Guermantes». «Che graziosa espressione! La riferirò a mio fratello!» «Ah, credete che possa interessare al signor de Charlieu?» Immaginavo che, se aveva un fratello, dovesse chiamarsi anche lui Charlieu. È pur vero che a Balbec Saint-Lieu mi aveva fornito qualche spiegazione in proposito, ma me n'ero dimenticato. «Chi ha parlato del signor de Charlieu?» replicò il barone con tono insolente. «Su, andate da Robert. So che avete preso parte stamattina a una di quelle sue colazioni orgiastiche con una donna che lo disonora. Dovreste usare l'influenza che avete su di lui per fargli capire quanto dolore provoca a quella poveretta di sua madre e a noi tutti, trascinando nel fango il nostro nome.